vedere quando ti allontanati un po', quando vai al ghetto, senti una roba così. Ah, vabbè, sicuramente non ci arrivo, Gianni ti sentirà, perché lui ha l'antenna sul tetto, io no. Per il momento ti ascolto, avanti Gianni. Sì, non c'è problema, poi se non mi ascolti già mi faccio sentire lo stesso, va. Adesso sono sopra, prima di Sant'Orsola, tra un po' si accende un po' nella valle, poi salgo dopo Sant'Orsola. Cavagallo. Sembra che sia calata anche la propagazione. In direzione sì, per la Tamona? Non proprio, dai. Quella strada che incrocia tra Villa Gorizia e Patamona, quella strada lì devo fare. Ah, ho capito, dai. Dove c'è l'incrocio della morte? Di vicino? Però mi fermo un po' prima. Dopo, più tardi, scendo giù a prendere un po' di pizze lì. Va bene. Già va bene, dai. Stiamo di nuovo ricominciando a vivere. Vabbè, io non è che mi sia fermato più di tanto, dai. Sono sempre andato da una parte all'altra, insomma, non ho avuto paura, dai. Adesso sono anche vaccinato, quindi. E io sono andato a San Teodoro, non mi hanno fermato in 150 km, poi arrivo a San Teodoro, la rotazione di San Teodoro, la rotatoria c'era la stradale. Mi sa che anche hanno fermato anche a me l'anno scorso, non so come c'è San Teodoro, comunque un paio di budoni, quella zona lì eravamo, dai. Però mi hanno fermato, siccome poi eravamo anche in due macchine, quindi ho avvisato gli altri, oh guarda che mi hanno fermato, hanno fatto loro dovere e basta, poi mi hanno mandato via. Ma il fatto che era codice rosso quando hanno fermato a me. Ahia, adesso sono le punti. Ma io me la sono scampata perché la mia compagna doveva rifiarsi la roba nel vecchio posto di lavoro, se ne doveva andare, quindi la roba le serviva e c'era il motivo. E quindi dai. No, noi eravamo in Reva, dai, eravamo in già forse in zona bianca. Abbiamo fatto una settimana lì ad Agruzzo, lì a Budoni. E ci hanno fermato rientrando, proprio rientrando a Sassari. Non so se stavo andando verso Olbia. Adesso sono le punte, come vado? Bene, bene, prova. Questa è la parte più bassa, qui dove c'è la rivendita di materiale edile, là. Come si chiama? Sì, 9,5 e 9,10. È abbastanza costante il segnale. Sì, sì. Ma cosa c'hai attaccato? Ma scalzò? No, no, questo sono le parte dell'apparecchio, no, non c'è nulla. C'è qualche cosa in più, dai, non è un bambino normale. Esce bene. Non è tutto, quella è la batteria della macchina, vuoi? Già va, la batteria della macchina va. Sono aspetta, le moto, sono le batterie, poi gli ampere che contano, beh, gli ampere. Io nell'altra macchina avevo messo a 100 ampere la batteria, la grande, c'erano le linee ridotte. E qui c'è un disputo, diciamo, sono sugli 800 ampere disputo. Sono sugli 8 ampere, sono 150 ampere, tutto là. Sì, già va bene, la propagazione sta salendo. Luca. Sì, io. Luca lo sto un po' perdendo, eh. A me mi senti sempre. Luca. Mi senti fra? Anche io c'ho un po' di QRM, eh. Non vedo segnale, ma adesso tra un po' scendo di brutto. Già, io lo so che c'ho un'altra interrata. E vai anche troppo bene. Vabbè, da te sì. Siamo praticamente vicini noi due, dai. Tu sei in alto e sono in basso. Riusciamo a interloquire. Ci vedono le antenne, dai. Più o meno sì, dai. Tu da quella zona lì, imbatti, beh, Pocuzzorra, Alghero, alla grande. Vabbè, oggi è anche una zona particolare, che c'è questo QRM, no, penso che non avrei avuto problemi neanche per Luca, Ma sì, è forte il QRM, lo sento anche io. Tutte cose così. Sono da molto che non attacchi il Ruisca. Come c'è senza bip, Gianni? È un altro apparecchio questo qua. Questo qua è l'Intec, stazione base. Ah, quindi no, non è che non so, non si trova che si è così. E molto magari se ne è messo o si fa male o no. Ah, vabbè. Non ce l'ha questo qua il bip, dai. Comunque c'è anche il Ruiz che mi sta aspettando, li ho provati quasi tutti stasera, 1, 2, 3, mi manca solo il Ruiz e il Cobra da provare. Quindi ti sento sempre benissimo a te. Cava. Dove sei arrivato? Qui sono la mandra di lui diavolo. No, più a te qua. Sì, la mandra di lui scheletro qua. tra un po' arrivo a Villa Corsia dove ci sono le scuole, il bar, il tabacchino. Ho capito. Come tanto non è troppo, eh? Sempre bene, a fra. Grazie tanto, sono meravigliato. Sei 9, sei 9. Grazie tanto, dai. Sono quasi arrivato, dai, io tra meno di un chilometro l'ho vissuto. Per la prima cancella, cosa fare? Per il tutto, se ti chiedo quando vado per il video, non mi richiamo. E 9 con QSB, capito? Capa, dai, sono in movimento. Comunque, bene, mi sento contento. Papà, dai, ci sentiamo fra, dai, buona serata, buon divertimento. Avanti, Luca. Dove cambiare le piante? Dove stai già? Cosa? Chiudendo stai? No, Franco sta chiudendo, è arrivato. Ah, ok, dai, ciao Fra, se mi ascolti, alla prossima. Non so se ascolti tu, ciao Luca. Come di guardare me, propagazione, baccarizzà. Ti ha salutato Franco. Ehi, ai, stavo dicendo, come di propagazione, per carità. Ciao Franco. Quello, dai, fare di ex e cose. È quello, la bellezza della propagazione è quella. E quale è il certo, ok, ciao. Ciao. Ma mi senti Giulio? Sì, io mi copro. Sì, che ti sento bene Luca, non c'è problema. Ci stanno arrivando forti, fastidiosi, perché rischiava. Mi stai arrivando 9.5 e tu modulati 9.7-8. Ti sento bene Luca, non c'è problema. Cava cava, sì, e poi la voglio lasciare chiara. Tu sei 9.30 qua. Sì, Giulio. Sì. Vabbè, tu arrivi più forte, già. Tu sei sul 3. Sul più 30, là. Tu sei fai 9.40, là. Sì, sto scendo anche con pochi watt, con 3 watt e mezzo sto scendo. Vabbè, io ho l'antenna, Luca, ho l'antenna sul tetto. Ma voglio dire, sul terrazzo, è là. Ma arrivi benissimo giù, pure anche a casa arrivi bene. Già va bene. Ma che laghi master c'hai, sì? Sì, la game master originale ho adesso, già da qualche mese, là. Poi prima l'avevo sostituita, no? Con quella che avevo avuto costruito io, adesso ho quella originale, ma andava bene anche l'altra, né più né meno uguale, non ho riscontrato nessuna differenza tra quella che avevo autocostruito e questa originale. Ho capito. Va bene. Gianni, la tua si devo piegata, no? No. Ah, se lo stesso, va bene. La mia è sempre dritta, quella retta. Ma non l'abbiamo sistemata noi, dai, l'ultima volta, così è. Vabbè, quella volta solo è successo. Mi auguro che non succeda più. Come dire, vabbè. È stata una distrazione, è stata messa troppo in alto. Non l'ha entrata come doveva entrare. Ma era la filatura, già le viste erano appena filata, quindi l'abbiamo entrata e poi riportata dove non c'aveva le filature, quindi più forte di così, meglio un po' su tre di fascette. Già, c'è un'alternata forte. Io? Sì, però giù confermi. Sì, infatti te lo dovevo dire, ma hai fatto prima tu a dirglielo. Sì, vedete. Era l'alimentatore. Sì, c'è un'alternata che copre un po' la radio, un po'. Un po'. Riesco che abbiamo il radio, dai. No, perché non ne stavo facendo. E questo alimentatore di cui non è grande, capito? Di quelli che c'è un trasformatore interno. C'è una cosa che non fa. Forse anche il microfono, che magari non abbiamo di massa buono, ti fa un problema lì. Ah, il microfono non c'ha nulla, va bene. Andava bene, ci da poco fa. Sì, vabbè, già lo cambio questo alimentatore, intanto ce n'è un altro. Adesso devo telefonare a una persona che ce l'ha, lo sta controllando. Poi me lo cambio. Tu come chiama a radio che ci senti male? Male di radio? Come male di radio? No, l'alternata ti copre la radio. No, la radio sta facendo bene, ma ti copre... ti sente questo rumore brutto, non è bello, dai. E ho già fatto caldo. No, Giulio, cosa ne dici? Sì, e beh, ormai le giornate sono a tempo buono, per cui non credo che cambi adesso. Sì, può succedere, magari una giornata un po' così, ma ormai siamo in giugno, e dunque giugno apre il pugno, lo dice il detto stesso, se va bene così. Ah, beh, certo. vediamo un po' domani come è messa la giornata. Iniziamo a prendermi la tintarella. Oh, ha già deciso? E vabbè, più di uno ormai se la sta già prendendo la tintarella, e tanta gente si è anche fatto il bagno, ad esempio di domenica, però ancora diciamo che è un po' presto, però non, quando fanno giornate molto calde si può anche fare il bagno, perché no? E poi c'è questo Antonio Iodo, vabbè, che se lo fa tutto l'anno il bagno. Chi è questo? No, non lo conoscono. Non lo conoscono Luca. Con 2 gradi lui, a petto nudo, mi assassa allenandosi, a petto nudo, con 2 gradi fuori. Allora come quel tipo che chiamavano Bacizia e Assassari, quello che andava a petto nudo in giro. Ehi vabbè, fuori il gabbo ebbe, quella persona fa così, a petto nudo anche d'inverno. Questo qua si fa in bagno anche, si cura viso 2 gradi, pure con la neve se l'ha fatto il bagno. C'è il dentista che se lo faceva sempre il bagno a Pratamona d'inverno. Sì. Un dentista che non mi ricordo come si chiamava, si faceva il bagno d'inverno. Ma sono Falchi, già lo so, aveva l'ambulatorio lì, al corso, nel palazzo del Duppi Vecchio, del primo film. Avanti Giulio. Ho detto, si chiamava quello che è l'uomo anziano, che si faceva il bagno anche in pieno d'inverno, andava, si cambiava e poi in macchina si cambiava di nuovo. E aveva, era un meccanico dentista, era un dottore dentista, e aveva lo studio lì in Corso Vittorio Emanuele, nel palazzo dove c'era il primo Uppi, il primissimo in assoluto, quello del Corso Vittorio Emanuele. Ah boh, non mi ricordo di questo particolare. Magari tu non l'hai nemmeno conosciuto, perché sarà morto almeno 30 anni fa, forse tu eri ancora troppo ragazzo per averlo conosciuto. 30 anni fa c'avevo 16 anni. Appunto, forse anche di più di 30 anni fa, ma io me lo ricordo benissimo, per cui, anche perché io quando ero ragazzo ci lavoravo di fronte, nel negozio dove avevo iniziato a lavorare, lui abitava lì, in quel portone, arriva al primo piano, mi sembra che abitasse, e aveva anche lo studio sempre lì, in quel palazzo. Tu non lo sai dove era Luppi Vecchio, il primissimo Uppime, tu l'hai conosciuto, penso di sì. Ma da Tazzoni? Il Luppime che c'era in Corso Vittorio Emanuele, lì Capita, lo sai dove è Capita? Via Rosello, più giù di Via Rosello, a sinistra scendendo, che adesso c'è una farmacia, c'è in quel palazzo, che invece c'è stata la banca, c'è stato anche il comune. Ah, sì. Diciamo di sì, ero un ragazzino, adesso lì è tutto negri. Dove ci mettiamo via la pasta, A molto, Io non lo so, non ci ho più passato lì, non lo so, non l'ho più visto. Comunque io l'ho conosciuto il dentista, era un dentista, Giulio, l'ho conosciuto quell'anziano che andava a farsi bagno a Pratamona d'inverno. Sì, infatti, ma era sempre cotto mio, io lo so perché l'ho conosciuto benissimo, ci andavo qualche volta a casa sua, lavoravo di fronte io alla Fiorentina, ma lui da sempre, da quando era giovane, era un bevitore, aveva sempre la bottiglia dell'acqua presso, mi non ti credere che forse era per quello che andava a raffreddarsi anche d'inverno al mare. A farsi passare i bollenti spiriti. Era sempre il gusto, era sempre con il cigarro, lui, sempre col sigaro in bocca era lui. Non lo sapevo che bevesse, lo sai, giù, non l'ho mai visto bere io. Non pensavo che bevesse, pensavo che fosse una persona normale, ma normale, oddio, particolare, perché se farsi il bagno d'inverno non era tutti, però normale nel senso che non avesse nessun vizio, ecco. No, beveva molto spesso anche, non faceva brutte figure, per quanto riguarda l'alcol, assolutamente no, però già trincava, sei tranquillo che trincava già, è morto anche. Trinio! vabbè, ormai è morto da tanti anni, è morto, mi ricordo, con i suoi baffetti, aveva, poi se se ne avrebbe tagliati il gioco, non lo so, ma sì, dall'ultima volta che l'avevo visto io aveva ancora i suoi baffetti, il suo sigaro è sempre la bottiglietta. E chi già? Sì, io l'ho conosciuto. Quello che aveva la guancia che discendeva giù, l'hai conosciuto tu? A voglia te l'ho conosciuto. Abitava lì nei pressi di Santa di Vecchio, lì verso il corso Vittorio Emanuele. Passava tutti i giorni lì davanti alla bottega dove lavoravo io. Sì, che l'ho conosciuto. Lo chiamavano Barra di Bocco, ma era una malformazione che aveva avuto da quando era nato quell'uomo, una persona in gamba mia. Ovvero che dicevano che il museo gli aveva dato non so quanti milioni perché quando morivano dovevano mettere, come diciamo, erano al museo imbassamato, roba del genere. Tu nulla ne sapevi di questa storia, io ho sentito così. Sì, era una voce che si vociferava abbastanza di questo particolare, ma poi che effettivamente l'abbiano messo al museo, no, assolutamente no. Questo sì, è vero. Forse magari sarà qualche fotografia avranno fatto, questo non te lo so dire, però era così. Lo so, purtroppo succedono alle volte queste malformazioni. Io la notte alle volte vedo canale 31, no, alla televisione. Tu devi vedere quante malformazioni ci sono nel mondo. Mamma mia, se vedi. Ti ricordi tu Giovanni 500 che aveva il malattino, già, te lo ricordi? Se eravamo amici, che ci aveva tutti i purri in faccia. Ecco, tutti quei purri così che aveva in faccia, non solo in faccia, tutta la persona, anche nelle mani, dappertutto, insomma, tutta la persona. Beh, molto spesso la notte c'è una dottoressa che opera le persone e distoglie questi purri qua. Ce n'era uno l'altra notte, tu dovevi vedere il piede, proprio sulle dita, eccetera. No? Tu pensa di quanto erano grandi questi purri e di quanti ne aveva, uno affiancato all'altro, non si vedevano le dita dei piedi, non si vedevano. Beh, poi l'ha operato e l'ha tolto e tu vedevi tutte le dita bene, tranquilla. Prendetelo già. Tutte le notti, su canale 31 ci sono queste cose qua. Io ho visto parecchie volte, io Giulio, ho visto cose tipo tumori esterni in faccia e tutto il corpo, che fanno la faccia deformata, non si capisce manco se è faccia o che cos'è, tumori esterni di quelli grossi, insomma, e ce ne sono, poveracci, che nascono con malformazioni allucinanti, dai. Avanti, dopo Crezio. E si è allontanato, dai. Sì, ce ne sono tantissime, povera gente, ci sono tutti i bambini, io ho visto anche nel labbro, o con uno spacco nel labbro, anche di 2 centimetri, il labbro superiore, ad esempio, no? È un vuoto da 2 centimetri, dunque, anche lì lo operano e lo mettono a posto, o le fanno una plastica, non so come fanno, però diciamo che molta gente viene operata e risolvono il problema di parecchie persone già. Sì, sono delle varianti di labbro leporino, quello lì. Si allarga parecchio, c'è di caso. Labbro leporino fa così, si deforma. Io ho un'amica che così che ce l'ha, il labbro leporino, non si è mai operata, però è brutto da vedersi, dai. E io mi immaginavo sempre quando la vedevo il fatto di baciare una ragazza con labbro così, mi farebbe impressione. Insomma, chiaramente la persona ci sta anche male, perché non è giusto nemmeno che una persona debba avere certe cose. Purtroppo la natura è crudele, come ho sempre detto tantissime volte, la natura è crudele. Gianni, ci sono le persone meno fortunate che purtroppo hanno queste cose qua. Cosa ci vuoi fare? Del resto in tutto il mondo ce ne sono persone malformate, purtroppo è così, pazienza. Speriamo bene. Per dire io, adesso se non avevo guarito il piede, correvo col cane, tutto quanto, ero ritornato al villo, mi ero già illuso di non avere più nulla. È bastato un nulla, hai visto? E di nuovo il punto a capo. Lo so già, vabbè, ma il tuo è stato un incidente, per cui è tutto, è una diversa storia quella, perché hai avuto l'incidente che ti avevi tagliato e poi hai avuto problemi nella guarigione. Questa è tutta un'altra storia. Ma queste persone, poverette, che tu immaginati quelli che erano nati in Russia quando era esploso quell'affare radioattivo, non mi ricordo come si chiama, e quante persone sono nate, anche le piante addirittura crescevano malformate. Aspetta, non mi ricordo com'era, forse tu te lo ricordi, vai, aiutami. Chernobyl. Esatto, Chernobyl. Io mi ricordo, chi era sano aveva dei problemi di respirazione, aveva problemi fisici, non indifferenti, sano nel senso, nell'aspetto. Infatti io mi ricordo che anche qui a casa ci abitava mia cognata vicino a me, no? Ci abitava. Ormai non più perché da anni si è venduto la casa. E aveva uno di questi ragazzini, arrivato dalla Russia proprio per fargli respirare aria sana, aria buona. E rimaneva 2-3 mesi, anche 4 mesi alle volte qua. Tutti gli anni veniva questo ragazzino, veniva, infatti poi i miei cognati sono andati anche in Russia a trovare i genitori. Praticamente l'avevano in un certo senso adottato, dai, per modo da dire, dai. Sì, lo facevamo anche noi della Croce Blu, praticamente facevamo prendere questi bambini dall'Ucraina, specialmente che era stata l'Ucraina invasa più della Russia, dai. In Ucraina ce n'erano tanti di questi bambini e li portavamo qua in Italia su richiesta eccetera eccetera, e restavano così come hai detto tu, sì, lo facevano apposta, le facevano fare le vacanze per respirare aria pura, al mare e cosa. E ho preso uno, un amico mio, una ragazza, no, dice ma una bella ragazza Gianni, quando è sceso ho detto caspita, cominciava, andava a città mercato, con tu comprare questo, comprare l'altro, come dice, non ci voleva, non si piega per salire. Sì, beh certo, guarda che questo bambino che aveva mia cognata, questo bambino che aveva fatto arrivare mio cognato, era di una bellezza Gianni che non si può nemmeno dire, non ci sono aggettivi per descrivere la bellezza di questo bambino, ma se lo vedevi era un fiore, bello, bello, bello, bello, meglio di una Madonna, era bello, guarda. E purtroppo era malato, aveva problemi ai polmoni, respirazione, eccetera, proprio a causa di quello che aveva respirato e di quello che respirava negli effetti del Chernobyl. E appunto è così. Infatti tante persone che magari si trovavano anche in stato interessante, le donne che c'erano lì, no? Tante persone hanno avuto il parto purtroppo con delle malformazioni del bambino. Purtroppo era così, è una cosa bruttissima. Lo so, purtroppo è così, praticamente non era solo il fatto della respirazione, ma anche quello che mangiavano, perché avevano inquinato piante, tu non potevi mangiare nulla, perché le piante, basilico, tutta la frutta, tutto quanto, era tutto inquinato dalle radiazioni. Sì, le radiazioni avevano inquinato tutti i terreni, eccetera. Anche la campagna praticamente aveva subito un danno enorme e penso che ancora oggi un minimo di radioattività ci sia ancora in quei posti, perché la radioattività non è che la elimini così né in 10 né in 20 anni né in 30, passano centinaia di anni prima di eliminarla completamente e non è facile assolutamente già, per cui vedi bene che vabbè, povera gente. Poi questo bambino era di una famiglia evidentemente poverissima, dai, io mi ricordo, qui era venuto in ciabatte, eravamo in pieno inverno, in ciabatte avevano mandato il bambino qui, subito mia cognata, è andata, gli ha fatto un corredo, gli ha fatto il vestiario, eccetera, ha comprato spade, scarpe, non una paio, no, roba di tre o quattro paio le aveva comprate. Quando poi l'hanno riportato indietro, sono andati ad accompagnarlo questo ragazzino a casa, in Russia. È arrivato lì e anche il padre era così tutto scarso, ha preso e si è messo un paio di scarpe del ragazzo, si è messo, perché era un ragazzo abbastanza alto, cosa avrà avuto di altezza? Io penso che era un ragazzo di almeno 1,60 m, 1,70 m più o meno, però era giovanissimo, cosa avrà avuto? Avrà avuto se no 17 anni, 18 anni, non di più, ma aveva un brutto, era formato insomma, era tutta la forma di un uomo completo o già. Sono già solo opere buone che si fanno quelle lì. Non ne avevano figli tuoi cognati e tuo sorello e tuo fratello? Sì, sì che te ne avevano, certo che ne avevano già due. In quel periodo sono rimasti un po' con noi, un po' con la nonna, cioè del marito di mia cognata, per cui il tempo di accompagnare, loro sono stati, penso io, lì 4-5 giorni sono stati lì in Russia, poi sono rientrati chiaramente, non è che, e gli hanno portato un sacco di provviste, gli hanno portato anche, anzi quando ero lì gli hanno lasciato anche dei soldi, gli hanno lasciato, perché dice che la gente è poverissima, ma povera, ad esempio questo bambino, tanto per ritenere qualcosa, non conosceva la Nutella, Gianni, non conosceva la Nutella. E mia cognata a casa per i ragazzi suoi, e la Nutella la prendeva sempre. Beh, questa ragazza addirittura se la mangiava di nascosto, di quanto era goloso, di quanto le piaceva, dal bicchiere, e diceva, ma avete già mangiato la Nutella ai figli? No, noi ce l'abbiamo toccato, e in effetti era questo ragazzo che si mangiava di nascosto la Nutella già. Che poi mangiare troppo bene non fa, perché fa degli urticari eccetera eccetera, ma la Nutella l'abbiamo sempre mangiata, ma adesso si è saputo che è fatta con l'olio di palma e mi ha un po' lasciato perplesso. La Nutella l'abbiamo sempre mangiata da piccola, mangiare i bambini e ci mette l'olio di palma. Ormai è tutti gli alimenti sono camuffati in qualche maniera, è sempre una questione di economia, è chiaro che certe fabbriche, certe industrie lavorano sempre col materiale meno costoso per poter appunto ingrandirsi sempre di più e diventare sempre più ricchi, ma lo sappiamo, ma in tutte le cose ormai è così, purtroppo è così già. Ma prendite, questo ragazzino era talmente goloso che lui non la conosceva nemmeno proprio. Si può immaginare la povertà di questa gente lì in Russia? In Russia, guarda, ci sono... Il caviale è molto buono in Russia. Io ho mangiato il caviale russo e è uno spettacolo, buonissimo. Ho mangiato le tartine di caviale. Siamo andati... Vabbè, io... avevo una compagna prima che era russa, siamo stati invitati da un'amica sua a cena e ha messo questo caviale con le tartine, ma di una bontà unica. Sì, ci credo, perché no? Ma se vuoi dire la verità, a me personalmente il caviale, perlomeno quello che ho mangiato io, sicuramente a roba italiana, non mi piace, la verità, non mi è proprio piaciuto per niente. C'è tanta gente invece che lo mangia ben volentieri, ma io no, ma nemmeno i miei a casa, non ci vanno matti assolutamente. La sala hanno assaggiato, non mi piace questa cosa a me. E infatti a me personalmente non mi è mai piaciuta, la verità. E nemmeno a me piaceva, però queste tartine che ha fatto lei con questo caviale, lui era venuto da poco dalla Russia e per festeggiare ha incontrato, capite, tutte le amiche con i rispettivi fidanzati eccetera, e hanno fatto una festa in campagna, hanno fatto questa pasta ai frutti di mare, perché questa amica sua sta con un pescatore di Alghero, quindi ha portato i frutti di mare freschi, c'era la ragosta, c'era un po' di tutto, c'era una tavolata enorme ti dico che c'è ogni bene di Dio. E niente, bevono con le spugne, tutto dentro, vodka, vino, tutto. Sì, sì, sì, beh certo, lo so, questa gente, è lì sai, sono paesi freddi, allora c'è sempre freddo e allora loro cercano di scaldarsi in quella maniera, col vodka soprattutto. Sì, no, tornando al discorso del caviare, tante volte hanno fatto anche quando venivano, ad esempio, tanto per fare un esempio, quando venivano in azienda qui, da mio cognato, perché lui faceva parte del gruppo, no? Era musicista anche lui, e facevano anche dei piatti col caviale, stuzzichiglie, balle varie, ma a me la verità non mi ha mai attirato, no? Anche quando c'era Gianni Morandi, eccetera. Questi piatti a forza di col caviale, loro si abbuffavano, a me non mi ha mai attirato, la verità. E il tartufo ti piace? Oh, è ancora peggio, ma te ne dico una di più, guarda, te ne dico una peggiore ancora. No, mi piacciono le aragoste mi strozzano, i gamberoni te le mangio una cesta, tu me le dai una cesta di gamberoni e te le mangio. Le aragoste non riesco ad ingoiarle bene, mi si fermano quasi nella gola, non mi piacciono proprio, guarda. Saranno buoni, io mi sento stopposa, mi sento, è una carne stopposa per conto mio già. Magari non le mai mangiate di quelle vive, di quelle congelate non servono, io le ho mangiate anche di quelle fresche sono buone a vivo. Però preferisco sempre i gamberoni, anche io, dico la verità, preferisco i gamberoni alle aragoste. La carne mi piace più quella dei gamberoni, sinceramente, e poi come ti dimostro io li faccio scongelare. Una volta scongelati li metto in frigorifero con l'olio, prezzemolo, peperoncino e aglio. Li faccio macerare e poi il giorno dopo li cucino, ma tu devi sentire che sapore. Me lo posso immaginare, no, a me piacciono in tutti i modi i gamberoni, cucinati in tutti i modi, no, quello sì. Poi mia moglie già li sa cucinare anche bene. Io li compro spesso, li compro qui da Paranpesca, una cosa del genere, qui vicino dove c'è l'orto, il mercato ortofrutticolo di Predalienda, di fronte, in quella strada per andare lì da Bricome, e c'è questo negozio che vendono, no? i pesci congelati vendono, e io li compro sempre i gamberoni, ma sono di quelli grandissimi, quelli L1 proprio. Devo dire che sono buoni, mi piacciono, la verità, li compro molto spesso già. 20, aspetta quant'è, una scatola da 2 kg, 20, 25, 26 euro, adesso non mi ricordo bene, ma comunque siamo su quella cifra lì. E gli altri dicevano, più o meno è quella la cifra, che tutti più o meno la vendono a quel prezzo lì. Ma ti dico che a me piacciono molto i gamberoni, e non piacciono solo a me, piacciono anche a Taiso. Ho provato a farli assaggiare, manco li veri. È certo che sì, però io lo stesso li mangio molto volentieri, ma tutti a casa li mangiamo molto volentieri. Poi c'è mia figlia che ha una maestria, sbucciandoseli contento con la forchetta di buccia. Io uso le mani e basta già. Io già li sbuccio così con la forchetta e poi li tolgo la parte, quella di sopra nera, che quelle sono le budella, li tolgo con la parte lì e poi li mangio. E li taglio i baffi, le zampette prima di cucinarli perché danno fastidio mangiando. E poi che si fanno mangiare, dai. Metto un recipiente per buttare le bucce, perché tanto facciamo sempre la montagna. da noi no, aspetta, ripeto, io li compro molto, ma molto spesso veramente, anche perché preferisco i pesci, preferisco alla carne, permesso che compriamo anche molta carne, qui il frigorifero è sempre pieno, no? Non ci sta praticamente niente in aggiunta, per dirti. A me piace, la verità, mi piacciono moltissimo. E non solo quello, anche altri pesci di ogni genere mi piacciono, ad esempio i lentiche, lo stesso, mi piace moltissimo. Quello fresco, e quello comprato fresco chiaramente, no, non congelato, il pesce è sempre fresco. Sono i gamberi e compro uno di quelli congelati e le uno, ma tutto il resto compro al mercato freschi già. Io il pesce a spada compro fresco, a fettine belle grosse, che buono, fatta arrosto. Sì, anche a me piace il pesce a spada, mentre invece non mi piace il tonno, cioè il tonno lo mangio lo stesso, perché io ripeto mangio qualsiasi cosa, non c'è, però mi piace un po' meno le tranche del tonno, non so per quale motivo, boh. E alle volte, soprattutto quello più rosso, quello lì, che magari è il migliore, via anche già, eppure non ci vado molto matto, la verità, preferisco molto di più il pesce spada al tonno. Sì, ma lo si può comprare sempre a 23, 25, apre un prezzaccio al chilo, si prende ogni tanto, io l'ho preso quando era il compleanno di Marco, perché Marco ci va pazzo per il pesce spada, per tutti questi pesci grossi, e l'ho preso il pesce spada, l'ho pagato a 23 euro il chilo. Lo so che costa così, già. Ma se vuoi mangiare bene devi anche spendere, poi lo sappiamo che se tu vai a fare una spesa con i pesci o una spesa di carne, la spesa dei pesci è tre volte tanto quella della carne già, anche comprando carne buona, tipo filetto eccetera, e compri tu pesci buoni e carne buona, e la spesa della carne è sempre almeno tre volte tanto quella dei pesci e tre volte tanto quella della carne. Sì, e poi anche la durata è diversa, se compri un chilo di carne ti dura due o tre volte, se compri un chilo di pesce ti domani tutti in una volta e è finito il gioco, non è così? Certo che sì, ma così, in effetti è così. In effetti è così, ma per dire, no? Per cui già sappiamo queste parole, che cosa vuoi fare? Tanto nella vita che cosa ne hai? Almeno se moriamo sassi, belli sassi e soddisfatti. L'altro giorno ho visto le ciliegie a montagna, tutti comprando ciliegie, sono arrivato a casa, facevano schifo, non c'avevano sapore di nulla. Poi ho chiesto, dicevo, no, per te arrivano dalla Spagna, questa roba non si può dire che erano spagnole, non servono a nulla quelle ciliegie. Mi hanno preso all'occhio perché erano belle grosse, le ho toccate, erano anche di quello un po' dure, ma di sapore non ne aveva nulla. Sì, beh certo, sì, ma noi ce ne abbiamo, anche adesso ce ne abbiamo qua, anche oggi, abbiamo le ciliegie, le nespole anche, sempre quello, le cose, le pesche, poi anche, cosa, come si chiama? Accidenti. E non era buona, mi sfugge. Ah, l'uva, e abbiamo tutto, noi la frutta qui ce la mangiamo tutti i tantissimi giorni, no, non c'è problema, anzi devo dirti che è molto spesso, soprattutto anche ieri, ad esempio, le pesche luci, perché ne ha comprato troppo mia figlia, perché in questo periodo sta andando lì a fare la spesa, ma esagera anche con la frutta, le ha buttato tre di colpo, tre belle pesche, belle, a vederli erano un peccato buttare, l'ha dovuto buttare nel coso del umido, perché quando li ho sollevati dal piatto, la parte che era appoggiata al piatto era marcio, ossia per tre pesche e noci ho già, capito? Lo so, la frutta si guarda, non vuole comprata molto la frutta, bisogna comprare quello che serve e poi il giorno dopo andare a ricomprarla, perché tanto poi ti si guarda tutta. Io a volte faccio lo stesso errore, compro molta frutta e pomodori, quelli ciliegina lo stesso perché mi piacciono molto, ed è compro in quantità superiore, a volte li butto via perché si guastano, perché naturalmente li tolgono dal frigorifero, poi questi tutti i passaggi che fanno, e quando tu li togli per fare cosa, prendono un po' di caldo e cosa, si guastano subito. E vabbè, comunque, già ci accontentiamo giù, ci accontentiamo ogni tanto, solo che adesso sono un po' a dieta, perché avevo sempre la glicemia la mattina un po' alta, durante il giorno era regolare, stamattina mi si alzava, adesso che sia perché ci guardiamo il televisore a una certa ora e immagino non ti ne abiti né manco di chi sono i mani, che sia per qualsiasi motivo, però mi stava salendo troppo, e quindi specialmente se mangio la pizza, pizza non li posso mangiare, a me mi piace un bel, la pizza non ne posso mangiare, mi sale anche a 300 e passa, 390, se mangio normale, cosa ti posso dire, un'insalata, una fettina, la mattina ce l'ho 135-140, se mangio due pizzette al taglio, all'impicco. Già, evidentemente c'è molto, molto peccante in quel tipo di pizza lì, e allora si fa male per quello. Noi la pizza la mangiamo immancabilmente tutti i sabati, prima la mangiavamo tutti i giovedì, ma sto parlando già di qualche annetto fa. Poi abbiamo cambiato il sistema e lo mangiamo tutti i sabati, immancabilmente noi mangiamo la pizza. E devo dire che alle volte l'ho mangiata anche di quella che vendo, messa nel fornetto, poi io la cucino a mia moglie e devo dire che è buonissima. Però in genere mangiamo la pizza quella della pizzeria, qui vicino a me già ce ne sono di pizzerie, per cui non c'è problema, capito già? Non abbiamo giornata, quando ne abbiamo voglia la prendiamo, a volte anche di più di una volta alla settimana. Magari non abbiamo voglia di cucinare, o ci prendiamo la fregna, o ci prendiamo la pizza e tira gamba. Però io non posso, e anche se si vive una volta sola, adesso per dire, l'altro giorno sono andato al supermercato e ho visto queste belle fragolone, ma belle rosse. Lo so che non li posso mangiare, però ne ho preso due pacchi, ho preso la panna di quella spray, di quella panna per dolci, le ho fatte con limone, le ho messe a macerare con limone lo zucchero, e dopo quando aveva fatto quel rosolio che fanno, buonissimo, gli ho messo la panna sopra ed era una sciccheria. Tutto a posto. Sì, no, a me anche le fragole non mi piacciono, la verità. Mia figlia già se le compra, le mangia, ma io e mia moglie non le mangiamo mai. Lei già se le compra e si fa molto spesso anche la Macedonia. Vedi, se nella Macedonia no, le mangio anche le fragole. Se a me se me le dai così, io già le rapide, le lave, me le mangio, non le mangio, no, non mi piacciono, la verità. Avanti l'amico, chi era, Franco? Sì, sì, avanti Franco. C'era di nuovo. Dai, per il movimento verso Marchetti, zona di Papua. Sempre bene Fra, sempre bene, qua arrivi benissimo. Io adesso sono con il Ruiz e sto uscendo con pochi watt, 3 watt e mezzo, dai. No, forse 5 watt, cioè 5 watt. E voglio sapere come sta andando. E va bene, l'interessante è quello che vi faccio sentire. E adesso telefono una persona che mi deve portare l'alimentatore, perché l'alimentatore la sta andando male, mi sta, sta facendo alternata. Sì, sì, Fra, ti ascolto bene, non c'è problema, va benissimo. Sì, Santiago 9 oscillante anche a 9.10, per cui va benissimo, non c'è problema. Dove stai andando? Verso Marchetto in fondo, verso i Bantamazzi? Qua sei 7, Fra. Ehi, tu sei 7 come segnale, la radio è buona. Ciao, va bene, adesso vi lascio e vi saluto, che devo portare giù il cane. Dai, ciao Giulio, ciao Franco, buona serata, grazie per il questo. Ci sentiamo alle prossime, ciao. Ciao Gianni, alle prossime, ciao ciao. Grazie per la chiacchieratina. Avanti Fra. Sì, ciao, ciao Gianni. Buon tutto, buona carica. Ok, dai, fai pure Fra, non c'è problema, dai. Ti saluto allora, dai. Allora io vado scendo giù, tanto sono già le 8:10, quasi, senza quasi, siamo vicinissimi alle 8:10, per cui ti saluto in questo momento. Dai, ciao Franco, alle prossime, buona pizza allora, ciao. Sì, qua sei 9:05, guarda, la radio 5 è perfetta. Buonasera, buonasera, buonasera. Dai, solo per un altro saluto. Ciao Franco, ciao Giulio. Ascolto anche Claudio, ti ascolto benissimo, visto che parliamo bene, sto facendo le prove, oggi ti ascolto bene, che a te. Ma a me mi devi ascoltare sempre bene, altrimenti è un casino. E anch'io ti ascolto benissimo, non c'è problema. Perfetto. Ok, ciao Fra, 9:05 è fisso, adesso mi serve arrivare, forse ti eri già fermato. Va bene, ci sentiamo. Babbo qua, dai. Anche io chiudo, ci sentiamo domani eventualmente, ok? Ciao qua, buonanotte e buona cena, ciao. Break. Ciao Giulio, ciao. Buona cena a tutti e ci sentiamo. Break. E a tu, tardi, io sono intanto sono a salutare, Giulio sta chiudendo, c'è Franco che sta ritirando le pizze. Ci sentiamo, ciao! Capo, salutone a tutti, salutone anche a Franco! E a tutti! Ehi, dai, sei conciso, ci sentiamo dopo, Anto, ciao! Capo! Ora! Gianni, ti sento? Ah, non vedi nessuno oggi!